Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Eh sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, in realtà è un treno dei desideri che possiamo prendere, perché per il momento non bisogna prendere i treni, lo sappiamo, bisogna restare a casa. Però questo è un po' il mantra positivo che passa di persona in persona, di casa in casa, quello canta che ti passa o suona che ti passa. Molti suonano a una certa ora sui balconi, tantissimi cantano, ed è un modo un po' effettivamente di così far uscire anche idealmente da questa clausura forzata ma inevitabile. Come sapete, un'Italia che esce sui balconi essendo chiusa in casa da nord a sud, e ci fa sentire anche più uniti. Addirittura pensate che si sta creando una classifica, una hit dei brani più cantati dagli italiani da nord a sud e da sud a nord, e pare che Azzurro di Conte sia la seconda in classifica. Il primo è l'inno d'Italia, poi c'è la terza, è Il cielo sempre più blu di Rino Gaetano. Poi se avete voi dei brani anche da suggerire, magari facciamolo, entriamo con un po' di musica e anche chiudiamo con un po' di musica, in modo da darci un po' del ritmo di leggerezza. E tra l'altro venerdì ci sarà un evento particolare che unirà tutte le radio italiane alle 11, venerdì tutte le radio trasmetteranno appunto brani di musica italiana, quelle che tutti sappiamo cantare. Bene, detto questo, ritorniamo allora sulle cose più prosaiche, più legate all'emergenza che ormai ci lega a queste notizie da circa quasi un mese, anche per quanto riguarda noi italiani, perché dalla Cina naturalmente era partito molto prima. Il coronavirus, per l'appunto. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che è sempre il numero per SMS e WhatsApp. Parleremo di vari aspetti, anche e soprattutto cominciando da questa super manovra varata dal governo che si chiama Cura Italia. L'OMS sul coronavirus: adesso ci sono più casi di contagio e morti fuori dalla Cina, vanno fatti più test, dice il direttore generale dell'OMS, e anche se gli over 60 sono più a rischio, sono morti anche giovani, compresi bambini, dice. Negli Stati Uniti, primo test di un vaccino sugli esseri umani somministrato a un volontario di Seattle. Il Covid-19 in Italia, secondo i dati aggiornati dalla Protezione Civile, i contagiati sono in tutto 27.980, compresi vittime e guariti. Le misure del governo: via libera alla manovra antivirus, 25 miliardi per l'emergenza. Conte parla di misure poderose. Le reazioni dei mercati: ancora un lunedì nero per le borse, Milano a meno 6%, crolli per l'automotive con la chiusura degli impianti. Il coronavirus e il mondo: la Svizzera dichiara lo stato d'emergenza, la Spagna chiude le frontiere, ma l'Europa cerca ancora una linea unitaria, mentre annuncia a sua volta di chiudere le frontiere a chi viene da fuori. Olimpiadi 2020, possibile il rinvio? Bisogna verificare come stanno le cose da qui a 60-70 giorni, dice il numero uno del CONI, Malagò. Partiamo quindi dalle dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice, attraverso il suo direttore generale: la scorsa settimana abbiamo assistito a una rapida escalation dei casi di Covid-19. Nel resto del mondo sono stati segnalati più casi e decessi che in Cina. Abbiamo assistito a una rapida escalation delle misure di distanziamento sociale, dice il direttore dell'OMS, come la chiusura delle scuole, la cancellazione di eventi sportivi, ma non abbiamo visto un'escalation abbastanza urgente nei test, nell'isolamento e nel tracciamento dei contatti. E poi dice: questa è una malattia grave, anche se le prove che abbiamo suggeriscono che gli over 60 sono a maggior rischio, sono morti in realtà anche giovani, compresi bambini. E poi aggiunge ancora il direttore generale dell'OMS: il nostro messaggio chiave è test, test, test su ogni caso sospetto di coronavirus. E ha raggiunto quota 7.000 il bilancio delle vittime di questa epidemia a livello globale, di questa pandemia, stando a un conteggio della AFP, l'agenzia di stampa francese. E veniamo ai casi italiani, aggiornati dalla Protezione Civile e dal commissario Angelo Borrelli. Supera quota 2.000 il numero delle vittime di coronavirus in Italia, che sono complessivamente 2.158, 349 in più rispetto a domenica, A crescere, secondo la Protezione Civile, è anche il numero dei guariti, 414 in più per un totale di 2.749. I malati sono invece oltre 23.000, fa sapere il commissario straordinario Borrelli. Il numero dei nuovi casi positivi è di 2.470, è un numero a ribasso anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia autonoma di Trento. Ma il trend, come avete visto anche dalle comunicazioni della regione Lombardia, è un trend in ribasso. I sindacati dei medici fanno intanto sapere che in Italia il numero dei contagiati fra gli operatori sanitari ha superato quota 2.000. Per arginare la diffusione del virus, il Ministero dei Trasporti ha deciso il blocco dei collegamenti passeggeri con la Sicilia, come già fatto per la Sardegna. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Finanziamenti privati sono pronti a coprire quasi tutta la spesa. Questo per l'ospedale con 500 letti di terapia intensiva che la Regione Lombardia allestirà nei padiglioni della Fiera di Milano. Lo ha assicurato il governatore Attilio Fontana, ha parlato di un trend, di una tendenza in leggero ribasso per i contagi in Lombardia. Il decreto Cura Italia si chiama così questo pacchetto di provvedimenti presentato oggi dal Presidente del Consiglio Conte. Lo Stato c'è, il messaggio del Premier Giuseppe Conte alla Nazione per il decreto Cura Italia, una super manovra da 25 miliardi che utilizza tutto l'indebitamento netto autorizzato dal Parlamento. Conte lancia il modello italiano, nessuno deve sentirsi abbandonato. Siamo stati i primi a mettere in campo qualcosa come 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, a beneficio delle imprese, a beneficio delle famiglie, e attiviamo flussi, attenzione, per complessivi 350 miliardi. Un primo provvedimento, ma non l'ultimo, spiega il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, 10 miliardi di sostegno all'occupazione e ai lavoratori affinché nessuno perda il posto a causa del coronavirus. 3 miliardi per autonomi e professionisti, 600 euro per marzo. Intanto la ministra Nunzia Catalfo lancia la cassa integrazione in deroga per tutti. E la cassa in deroga quindi per tutti i datori di lavoro, anche con un solo dipendente, che ne potranno usufruire con uno stanziamento di 3 miliardi e 300 milioni di euro. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un congedo parentale speciale per 15 giorni, pari alla metà della retribuzione, e in alternativa voucher babysitter di 600 euro per i genitori lavoratori dipendenti o autonomi con figli al di sotto dei 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole. Misure che non hanno limitazioni di età nel caso di presenza di un disabile. Questo è il principale aiuto destinato alle famiglie per affrontare l'emergenza coronavirus. In arrivo bonus babysitter speciali anche per il personale medico, congedi speciali per i malati oncologici e più in generale per le figure più fragili. Estesa anche la possibilità di usufruire dei permessi previsti dalla legge 104 che per marzo e aprile passeranno da 3 a 12 giorni con uno stanziamento di 500 milioni di euro. Sospesi per le famiglie i pagamenti dei contributi per colf e badanti che andranno fatti entro il 10 giugno senza sanzioni e interessi. E poi ancora sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi. In arrivo poi per le scuole 85 milioni di euro per potenziare la didattica a distanza. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 3 miliardi e mezzo. A tanto ammonta lo stanziamento del decreto per sanità e protezione civile. Risorse che serviranno a gestire l'emergenza, dice il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Ci consentiranno di sostenere il lavoro eroico straordinario che il sistema sanitario e gli altri operatori pubblici stanno svolgendo. Buona parte delle risorse andrà alla sanità. In arrivo quindi più fondi per gli straordinari di personale sanitario, medici e infermieri in prima linea in questi giorni nella lotta al virus. Previste oltre 20.000 assunzioni tra medici, specialisti, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e amministrativi. A una fase eccezionale si risponde con misure eccezionali, ma si vince con il contributo di tutti, scrive su Facebook il ministro della Sanità Roberto Speranza. Le risorse che arriveranno alla protezione civile serviranno inoltre in larga parte per acquistare mascherine e ventilatori per la terapia intensiva. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dopo torneremo sulla manovra appunto del questa Cura Italia, questa manovra, questo provvedimento che stanzia 25 miliardi del governo. Intanto c'è da aggiungere, per esempio, fra le varie cose, che in questo modo la laurea in medicina è definitivamente abilitante alla professione medica, e quanto appunto stabilisce, fra le molte altre cose, il Cura Italia approvato oggi. Questo significa liberare immediatamente sul sistema sanitario nazionale l'energia di circa 10.000 medici, fondamentale per far fronte alla carenza che lamentava il Paese, commenta il ministro dell'Università Gaetano Manfredi. E poi, a proposito dei furbi, degli speculatori, mascherine, guanti, disinfettanti e prodotti per l'igiene, dal 22 febbraio ad oggi la Guardia di Finanza ha sequestrato 60.000 pezzi fuori norma o venduti a prezzi esorbitanti, con un ricarico sul prezzo che in alcuni casi è arrivato fino al 6.000%. Di questi 60.000 prodotti, 55.000 sono stati sequestrati in negozi e magazzini, mentre 5.000 sono stati intercettati alle dogane. I provvedimenti hanno interessato tutta Italia, in particolare Lombardia, Piemonte, Campania e Puglia. Oltre alle restrizioni valide per tutta Italia, ci sono limitazioni ulteriori per alcuni comuni dichiarati zona rossa. Sono Medicina alle porte di Bologna e altri 4 in Campania, nel Salernitano. Due riunioni con un predicatore e un rito, bere tutti da uno stesso calice. I profili dei contagiati parlano chiaro. È partita da 2 appuntamenti mistici a inizio marzo la diffusione del virus in un'area del Salernitano dove ora sono stati chiusi del tutto 4 comuni. 9 zone rosse in Campania dopo quella di Ariano Irpino. Non si entra e non si esce da Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana, tutti nel Vallo di Diano, dove sono state accertate 16 persone positive al virus. Si tratta di un'area ampia dell'entroterra tra il Cilento e la Basilicata. La linea dura del governatore Vincenzo De Luca ha creato disorientamento, ma era una decisione necessaria, conferma Francesco Cavallone, sindaco di Sala Consilina, che con 12.000 abitanti è il comune più grande tra quelli zona rossa. C'è un poco di confusione su chi può fare cosa, ma credo che fosse una misura indispensabile proprio per cercare di evitare di portare fuori Sala. Un contagio è partito tutto da questo incontro catecumenale. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto, per quanto riguarda gli Stati Uniti, varie dichiarazioni vedo man mano adesso, secondo i dispacci di agenzia, di Trump che chiede per esempio agli stati americani di decidere un rinvio delle primarie, che parla di una possibile recessione per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'economia degli Stati Uniti, e poi lunedì nero per Wall Street che chiude la peggiore seduta dal 1987. Il Dow Jones chiude perdendo il 12,94%. E intanto, sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, si parla di un primo test di un vaccino anticoronavirus su un essere umano, lo si apprende dalla Associated Press. Lo avrebbero somministrato in via sperimentale a un volontario di Seattle, una delle aree più colpite appunto negli Stati Uniti. Nel frattempo l'Europa si muove. We propose to introduce a temporary restriction on non-essential travel to the European Union. Meno viaggiamo, più possiamo contenere il virus. Pertanto propongo ai capi di Stato e di Governo di introdurre restrizioni temporanee sui viaggi non essenziali nell'Unione Europea. Con queste parole, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha confermato che l'Europa si blinda, sbarrando i suoi confini esterni, per 30 giorni. L'annuncio, già anticipato dalla presidenza francese, è arrivato al termine della videoconferenza tra i leader del G7. Eccezioni per gli europei che rientrano e per medici e scienziati che portano avanti la ricerca contro il Covid-19. Chiudere le frontiere interne invece non è la soluzione, secondo la Commissione UE, perché, ha spiegato, non bisogna impedire la circolazione di farmaci, dispositivi medici e cibo. Intanto anche la Svizzera dichiara lo stato d'emergenza e la Germania annuncia misure più dure per ridurre i contatti sociali perché il numero dei contagi sale, spiega la cancelliera Merkel. Per lo stesso motivo, la Spagna chiude le frontiere. Via terra entreranno solo spagnoli, stranieri per cause di forza maggiore e merci. Ed è svolta in Gran Bretagna, dove il Premier Johnson ha raccomandato i britannici di lavorare da casa, evitare viaggi e contatti. State lontano, ha detto, da pub, teatri e altri luoghi di ritrovo. Il coronavirus è anche sul tavolo dell'Eurogruppo. La flessibilità c'è e sarà pienamente utilizzata, ha garantito il suo presidente, il portoghese Mario Centeno, mentre dal G7 la rassicurazione che l'organizzazione farà tutto il possibile per garantire la crescita delle economie in quella che ha definito una tragedia mondiale dell'umanità. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ci collegheremo sia con la Spagna, c'è un ascoltatore che scrive tra l'altro dalla Spagna, leggerò poi il messaggio, e anche con la Francia, dove Macron, che appunto questa sera ha tenuto un discorso alla Nazione, ha parlato di misure molto restrittive, però le ha annunciate a partire da domani a mezzogiorno. Quindi non immaginiamo, da quello che poi era successo in Italia, con ricorri ai supermercati, un fuggi-fuggi con i treni dal nord verso il sud, il dire che aver detto stasera alle 20 che da domani a mezzogiorno, vabbè, poi ci collegheremo con la Francia. Mentre per quanto riguarda, sempre stando all'estero, Israele, cambiamo notizia, mentre Israele si prepara a nuovi provvedimenti restrittivi, sempre a sua volta per affrontare l'emergenza coronavirus, il primo ministro incaricato Benny Gantz ha ricevuto il mandato, si è messo subito al lavoro per costruire il prossimo governo, ma la strada per un governo nazionale che ha promesso al presidente Rivlin appare adesso in salita, segnato come sempre in queste tre ultime elezioni, una dietro l'altra, dal rebus Benjamin Netanyahu e dalla sua coalizione, il Likud. E il coronavirus è naturalmente anche economia, molti impianti, anzi lo è moltissimo, proprio tra poco poi parleremo della misura del governo italiano, molti impianti chiudono i cancelli, in prima linea il settore auto. Mentre in Cina riaprono i negozi Apple e ripartono le fabbriche, in Europa succede il contrario. Fiat Chrysler chiude fino al 27 marzo i principali stabilimenti in Europa, in Italia, Polonia e Serbia. E la chiusura è stata decisa anche dai gruppi Renault e Peugeot. Dietro gli stop il forte calo della domanda e la necessità di riorganizzare gli stabilimenti per garantire la sicurezza antivirus. Chiusi per tutto marzo anche gli 8 stabilimenti Fincantieri in Italia, 9.000 dipendenti. E chiusure diffuse si registrano anche nei cantieri edili in tutta Italia, a partire da quelli della Colombo Costruzioni, 2.000 dipendenti, impresa numero 1 in Lombardia. Impossibile garantire la sicurezza, spiegano i costruttori. Le principali compagnie aeree intanto organizzano i prossimi 2 mesi con un calo di voli del 70-90% e secondo la società di consulenza Capa molte società rischiano la bancarotta. E nel decreto legge appena varato dal governo spunta un fondo da 600 milioni per indennizzare le compagnie che svolgono in Italia oneri di servizio pubblico e per assorbire Alitalia sotto il controllo dello Stato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere lo sport, parliamo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 che dovrebbero iniziare a luglio. È stato chiesto al presidente del CONI Malagò se c'è in programma un rinvio. Dice: nessuno poteva immaginare una situazione del genere, si naviga a vista. Se c'è un piano B, noi abbiamo 2 interlocutori, il CIO, che è il Comitato Internazionale Olimpico, e il Comitato Organizzatore. È sbagliato, dice inelegante, dice Malagò, anticipare questo tipo di ragionamenti. Dice: abbiamo ancora davanti dei giorni, ma bisogna verificare come stanno le cose da qui a 60-70 giorni. Sapete che un po' tutto il mondo dello sport, anche se a rilento, anche se in ritardo, si sta fermando a livello internazionale. Bene, noi invece ci fermiamo qui brevemente, giusto per aggiornare chi dovesse viaggiare, ma viaggiate il meno possibile, solo per emergenze sanitarie e per lavoro. Ci sentiamo un momento. One Express, il pallet express. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Come sempre tantissime notizie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Roberta Giordano con voi, mio malgrado per lo più legate alla pandemia di coronavirus e alla situazione italiana in particolare, ma non solo. Vedo sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, molti, l'ho chiesto sulla pagina Facebook, come stanno passando queste giornate di clausura, chiusi in casa, perché così bisogna fare. E Samuele dice: ho guardato le 6 puntate delle avventure di Pinocchio di Comencini, che è veramente bellissima, io me lo ricordo da bambina, mi ha lasciato un ricordo molto bello. Poi Gianluca dice: siamo stati a casa, ha cantato Rino Gaetano, la messa in TV dal Divino Amore, anche allenamento di corsetta dentro casa e tutorial di Total Body. Molti guardano online anche le lezioni, per esempio, di fitness, di ginnastica, di vari sport, eccetera. Mentre Elena dice: cerco di mantenere la routine, mi alzo, mi prendo cura dei gatti, faccio la doccia, mi trucco, mi vesto, non proprio come se dovessi uscire, ma non sto in pigiama. E devo dire che ci sono diverse persone, soprattutto donne, amiche, che mi dicono: no, no, ma io anche se sto chiusa in casa mi trucco, mi curo, ovviamente mi metto i capelli in un certo modo, nel senso che è bello anche per chi se la sente mantenere una certa dignità, per se no, altrimenti usciti, speriamo il prima possibile da questa clausura, ci ritroveremo tutti con un'area un po' così sfatta, diciamo. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo tra i vari ascoltatori chi scrive da Madrid, chi dalla Germania, chi dagli Stati Uniti, chi dal Venezuela. Gabriele dice: buonasera a tutti, l'animo creativo italiano è incommensurabile. In Spagna, dove lavoro, hanno fatto circolare un programma settimanale dei brani da fare in balcone. Dice: secondo me è stata snaturata la filosofia propria del flash mob. In effetti, Gabriele, perché gli italiani hanno cominciato a cantare molto spontaneamente. Vi facevo sentire all'inizio Azzurro, per l'appunto, di Paolo Conte. Davvero orgoglioso, perché sono partecipe di questa grandiosa comunità che addirittura ho l'onore di guidare in questo frangente così complesso, così delicato per la nostra storia. Tanti italiani sono, alcuni sono direttamente in trincea, negli ospedali, nelle fabbriche, nelle farmacie, dietro le casse di un supermercato. Tanti rimangono a casa, ma non rimangono inerti. Li sostengono da un balcone, da una finestra, cantano con loro, cantano l'inno nazionale. Possiamo essere davvero orgogliosi di essere italiani. Insieme ce la faremo. Tutti insieme ce la faremo. Avete sentito un passaggio del discorso del Presidente del Consiglio Conte, perché mai prima d'ora, davvero mai prima d'ora, la vita di ognuno dipende esattamente dalle azioni dell'altro e degli altri, no? L'ho detto più volte, siamo come tante tessere di un domino, quello che fa uno poi si ripercuote sull'altro e così via. E per affrontare l'impatto dell'epidemia di coronavirus nei vari ambiti della nostra vita, del nostro paese, il governo quindi ha varato questa super manovra, un decreto legge chiamato Cura Italia. Si tratta del primo importante intervento finanziario utilizzando tutto l'indebitamento netto, scusatemi, anche io comincio a essere stanca, da 25 miliardi autorizzato dal Parlamento per attivare poi flussi per 350 miliardi. Ci spiegherà tra poco Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, cosa significa che 25 miliardi stanziati possano attivare flussi da 350 miliardi. E così ne approfitto per salutarlo, caro Alberto. Buonasera a tutti. Ciao, quindi Conte dice che lancia un modello italiano non solo sul fronte della strategia di contrasto, ma anche di quella economica. E gli ambiti di intervento di questa manovra li possiamo schematicamente suddividere in tre ambiti principali: famiglie e cittadini, insomma, privati, le imprese e il sistema sanitario. Allora, Alberto, ti farei sentire intanto questo ulteriore passaggio di Conte. Siamo stati i primi a mettere in campo qualcosa come 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, a beneficio delle imprese, a beneficio delle famiglie. E attiviamo flussi, attenzione, per complessivi 350 miliardi. Questa è una manovra economica poderosa. Quindi una manovra economica poderosa, dice. E quindi per iniziare dalle misure per il lavoro, l'occupazione dei lavoratori, Alberto, vi faccio sentire il ministro dell'economia Gualtieri. Abbiamo un capitolo molto corposo che vale più di 10 miliardi di sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito, affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus. E poi sentiremo la ministra del lavoro Catalfo sui licenziamenti, sulle malattie per i lavoratori. Alberto, quindi vogliamo cominciare a scandagliare un po' questo provvedimento, che contiene tantissime cose, 100 pagine tra l'altro, no? Beh sì, obiettivamente è una risposta globale a tutti i settori che sono interessati da questa glaciazione improvvisa, rapida e devastante dell'economia. Parliamo del settore dei servizi, del turismo, del quello marittimo, degli aerei, delle produzioni naturalmente manifatturiere, dell'alimentare, insomma tutte le filiere produttive del Made in Italy e non solo. Pronto? Sì, sì, ti sento, Alberto. Ah, scusami, ho sentito una cosa nel telefono, abbiate pazienza. No. Dicevo, tutte le filiere sono state ricomprese tra il novero dei settori che vanno assistiti sostanzialmente da questo da questa ingente emissione di liquidità, perché il problema vero in questo momento è che manca la liquidità alle imprese per sopravvivere nel breve periodo e anche naturalmente per organizzare investimenti nel lungo periodo. Il fatto, dicevamo, dei 25 miliardi che ne possono attivare complessivamente più di 300 è un fatto normale, anche il famoso piano Juncker era quello annunciato con una quindicina di miliardi europei che poi ne avrebbero attivate anche lì più di 300, cioè si chiama, è il moltiplicatore, vale a dire quando tu metti in campo una forma di investimento che ha una garanzia pubblica ed è finanziata all'inizio appunto da contributi pubblici, a quelli si possono affiancare naturalmente i contributi di mercato, di fondi, di banche, di quant'altro, perché si affiancano all'erogazione pubblica perché sono forti della garanzia appunto che lo Stato dà a quel tipo di provvedimento e quindi si tratta di investimenti sicuri ed è questo il meccanismo del moltiplicatore ed è il meccanismo che è stato messo in campo dal governo appunto. Quindi dicevamo che c'è il congedo parentale a 15 giorni sostituibile con un voucher per la babysitter da 600 euro, c'è la cassa integrazione in deroga che andrà a coprire anche le aziende con un solo dipendente per la quale il Cura Italia stanzia 3,3 miliardi, poi il fondo di integrazione salariale che vale 1,3 miliardi, per i lavoratori autonomi previsti 600 euro di una tantum nel mese di marzo, mentre poi c'è il congelamento totale di licenziamenti, decisione che investe tutte le procedure a partire dal 23 febbraio, come oggi ha spiegato la ministra del lavoro Catalfo. E poi sentiamo anche questo passaggio sugli ammortizzatori sociali della ministra Catalfo. Gli ammortizzatori sociali sono finanziati per un periodo di 9 settimane, mentre le tutele per gli autonomi, i liberi professionisti hanno un primo intervento nel mese di marzo che ovviamente verrà rinnovato nel prossimo decreto. E poi importantissimo naturalmente per quanto riguarda il sistema sanitario, anche qua c'è un stanziamento di 1,3 miliardi in questo Cura Italia. Sentiamo il ministro dell'Economia Gualtieri. Un finanziamento aggiuntivo molto significativo per il sistema sanitario nazionale, della protezione civile, degli altri soggetti pubblici che sono impegnati sul fronte dell'emergenza. Sono risorse per quasi 3 miliardi e mezzo che ci consentiranno di sostenere il lavoro eroico straordinario che il sistema sanitario e gli altri operatori pubblici stanno svolgendo. Però Alberto, diciamo, questa è una certa tregua che c'è da qualche giorno tra il governo e opposizione, insomma, non è che tenga moltissimo, anche se si dicono collaborativi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Però sentiamo per esempio cosa dice il leader della Lega Salvini. Miracoli non li fa nessuno e non pretendiamo i miracoli dal governo. Noi vogliamo essere collaborativi e propositivi, però non ci si venga a dire che quei 100 euro per i lavoratori dipendenti o quei 600 euro per i lavoratori autonomi o i 1000 euro per le babysitter e per le famiglie con i figli a casa, un tetto di reddito, risolvano i problemi. E sentiamo anche la leader di Fratelli d'Italia, Meloni. Mi preoccupa sentirlo chiamare decreto Cura Italia, perché con questi provvedimenti l'Italia non si può curare e io spero che il governo di questo sia consapevole. Cioè questi provvedimenti servono al limite a mettere il primo cerotto all'Italia, decreto cerotto Italia, ma non decreto cura Italia, perché per curare l'Italia serviranno ben altre risorse, serviranno ben altri provvedimenti, servirà ben altro coraggio. Spero che questo il governo ce l'abbia chiaro. Voglio di canzoni, si può dare di più Alberto Rioli? Si può fare di più? È chiaro che c'è la strumentalità della polemica politica, è evidente, in una fase in cui effettivamente l'opposizione fatica a trovare argomenti perché è tutto il paese che è unito in uno sforzo corale evidente che supera qualunque tipo di schieramento, di fazione e quant'altro, perché il nemico è unico e va combattuto. È pur vero che il governo ha precisato che questo è davvero il decreto, il primo decreto che è il cerotto Italia all'interno della Cura Italia, perché poi ne stanno predisponendo un altro che riguarderà appunto il completamento delle agevolazioni che sono state date alle filiere produttive coinvolte, cioè al sistema economico che è coinvolto appunto nel blocco, che metteranno in campo strategie per organizzare investimenti, che è la cosa più importante. Si tratta di mettere in campo progetti di media-lunga gittata che coinvolgano importantissime somme da investire in infrastrutture importanti, strategiche per il Paese, che abbiamo visto anche essere decisiva in questa fase, penso alla digitalizzazione, penso che è fondamentale per lavorare al meglio in remoto, non per lo smart working, perché è chiaro che le linee si stanno intasando, è evidente, le reti è sottoposta a uno stress enorme perché quasi tutto il mondo produttivo e di servizi sta lavorando in remoto, quindi utilizza tecnologie digitali. Cioè lo smart working, telelavoro, eccetera. Il lavoro agile, tutto il resto andranno evidentemente molto potenziati. Tutto questo potrà essere allestito in un quadro poi che coinvolga anche l'intera Europa. Non a caso Conte stesso e Gualtieri continuamente rimandano a un ulteriore sforzo europeo in tutti i campi, da quello sanitario a quello infrastrutturale a quello degli investimenti, perché la strategia massiccia degli investimenti per non far perdere il colpo all'economia e per consentire al PIL di ripartire non appena l'emergenza sarà finita non può che passare da uno sforzo corale dell'Europa, chiaro, dell'Eurogruppo, e infatti della oggi, BCE e di tutto il resto. Di nuovo la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha ribadito: faremo tutto il necessario per sostenere l'economia, rispondere alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e ristabilire la fiducia. Tra l'altro, ecco, questo provvedimento di oggi, il Cura Italia, non è solo, diciamo così, tra virgolette, economico, ma fra le altre cose rinvia per esempio le udienze civili, penali, amministrative fino al 15 aprile, interviene sui penitenziari danneggiati dalle recenti rivolte, disciplina il lavoro agile prevedendo un premio a marzo da 100 euro per i dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro che si recano in sede, permette alle imprese di produrre mascherine in deroga alle norme vigenti ma con il controllo dell'Istituto Superiore di Sanità, autorizza la costituzione di un new co controllata dal Ministero dell'Economia per l'Italia e poi molte altre cose. Fra l'altro però Conte ha anche aggiunto che questo è, diciamo, una prima tranche, un primo provvedimento, una prima manovra, ma poi ci saranno altre misure. Stiamo con questo decreto, forte, deciso nei numeri, nelle misure, noi non esauriamo il nostro compito per quanto riguarda gli interventi in campo economico. Siamo consapevoli che questo decreto non basterà, ma voglio dire ai lavoratori, alle imprese, alle famiglie che oggi il governo risponde presente e risponderà presente anche domani. Allora, caro Alberto, per chiudere, vedo tantissime ascoltatrici e ascoltatori che dicono che cosa fanno in casa in questa clausura. Lezione, dice Bruno, lezione online con 24 ragazzi della classe, che meraviglia, che sound, ne sono uscito con un po' di mal di testa, ma felice, e poi a studiare e suonare, ma non dal balcone. Dina dice, stare in casa non mi pesa troppo, libri, studio, scemenze varie, ma sono preoccupata un po' per mio figlio, infermiere, a cui hanno fatto il tampone, ma più che altro sono preoccupata per il lavoro dell'altro figlio, dice, vabbè, riprenderemo da un punto di vista economico. Mentre c'è questa ascoltatrice che dice, io mi sento fortunata, ho il giardino, quindi taglio l'erba, poto le piante, prendo il sole, non devo stare chiusa in casa, perché appunto ha il giardino e c'è chi ha questa fortuna. Tu, Alberto, a parte lavorare naturalmente, ecco, cosa sì, posso chiederti? Naturalmente c'è un impegno abbastanza lungo, diciamo, in questi giorni, però siccome siamo tra noi ti faccio una confidenza. Sì, solo a me. L'altro io, diciamo così, in genere fa dei quadri. Tu sei un artista, è vero. Essendo io recluso nei weekend e quando è anche adesso, naturalmente tutto questo è tempo molto prezioso e utile per fare grande ispirazione, quelle cose che quindi mi divertono moltissimo. Il tuo estro si scatena. Senti, invece, per chiudere, visto che vari si stanno scatenando anche coi titoli che suggeriscono da cantare sui balconi, Volare di Modugno, scrive questo ascoltatore, O Sole Mio, Il Ragazzo della Via Gluck, suggerisci anche una tua, Alberto? No, guarda, io sono sono un uomo del Novecento, per me va benissimo l'inno nazionale. Ah, l'inno nazionale, molto istituzionale, molto patriottico. Va bene, insomma. Però l'ho sentito molto cantare anche nei balconi vicino a casa mia. Sì, sì, certo. È la prima in classifica di questa Hit Balcony Music, Balcony Hit si chiama, la classifica delle canzoni cantate sui balconi. Molto bene, non ti chiederò di cantare, Alberto, perché anche se sei un artista forse è troppo. Ecco, lascerei perdere. Va bene, d'accordo, con clemenza. Grazie Alberto Rioli, buon lavoro e buona arte. Grazie. Ciao caro Alberto. Bene, direi piccolissima pausa. Per i vostri messaggi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666 che è il numero per SMS e WhatsApp. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. state ascoltando Effetto Notte, allora siete al posto giusto, nel momento giusto, specie se lo state ascoltando da casa. Se non siete a casa, dovete avere giustificazione, come per esempio, fra i tanti, la guardia giurata che ascolta con la cuffietta, mentre sta attento che nulla succeda naturalmente nella sera e nella notte. Roberta Giordano, sempre con voi, e mi raccomando, appunto, questo deve essere il vostro imprescindibile appuntamento della sera, in modo da avere un quadro il più possibile aggiornato di quello che succede di più importante in Italia e all'estero, altrimenti cosa lavoro tutto il giorno per questo appuntamento con voi la sera. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte, mentre continuano i vostri messaggi su quello che fate in questa clausura forzata ma inevitabile, dice Paolo, con la lettura, il tempo lento, lavori manuali e il giardino che aspetta cure, è un tempo regalato, dice Paolo, visto che se deve fare, dice, è un tempo regalato. Poi invece Francesco, ho un universo di libri di saggistica da leggere ma sono a buon punto, complimenti, mentre qualcun altro propone di cantare dal balcone Gloria di Tozzi, allora io proporrei Ti amo oppure Notte Rosa per esempio. E poi Raffaele dice, in giro in taxi a disposizione delle persone che hanno bisogno di muoversi, anziani che devono fare la spesa e ospedali, dice Raffaele, non ho capito se però lo fai per lavoro o lo fai proprio così come volontario, comunque va bene in ogni caso se, se il tuo mestiere è legittimo. Dopodiché qualcuno, ecco, vedo un'altra, un aggiornamento di Conte, Presidente del Consiglio Conte, vediamo che cosa dice. La priorità è un'azione coordinata contro l'emergenza da parte di tutta Europa, certo è questo che si continua a ripetere da parte di tutti i leader europei. Il Premier Conte, a quanto si apprende durante i colloqui, leggo dall'agenzia, con i suoi omologhi europei, in questi ultimi giorni ha persuaso i leader a concentrarsi tutti di qui in avanti sull'emergenza coronavirus e sulle azioni coordinate da porre in essere con la massima urgenza. Poi ci collegheremo con Francia e Spagna, per esempio, a questo proposito. Adesso vi farei sentire, allora avete sentito inizialmente i dati, il bollettino aggiornato dalla Protezione Civile attraverso il commissario all'emergenza che è Angelo Borrelli, vi faccio risentire questo audio della conferenza stampa oggi di Borrelli. Oggi registriamo 414 guariti, quindi un numero più elevato di guariti di ieri e porta il totale a 2749. Il numero dei nuovi casi positivi è di 2470, è un numero a ribasso anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia autonoma di Trento. Ma il trend, come avete visto anche dalle comunicazioni della regione Lombardia, è un trend in ribasso, registriamo questo dato. E poi c'è l'altra parte del bollettino che parla delle persone ospedalizzate e anche delle persone decedute. Il totale attuale dei positivi quindi è pari a 23.073, di questi 10.197 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 1.851 in terapia intensiva, quindi sono sempre il 10% dei contagiati positivi, e registriamo purtroppo anche oggi 349 deceduti. Sempre critica poi la situazione di Bergamo e Brescia per quanto riguarda la Lombardia in particolare. E poi a proposito invece delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli, a chi i giornalisti che in conferenza stampa gli hanno chiesto per esempio se è vero, ogni tanto ritorna un po' questo dubbio, se è vero che il virus possa permanere un tot di tempo sulle superfici. Sentiamo cosa ha risposto Locatelli. Un virus per vivere e replicarsi ha bisogno di cellule, da solo altrimenti non ce la fa, per capirci. Che poi le goccioline di saliva cadendo su alcune superfici dei nostri ambienti familiari piuttosto che lavorativi per un po' di tempo possano avere al loro interno delle cellule che albergano il virus, assolutamente possibile. Questo tipo di modalità di contagio è assolutamente marginale rispetto al contagio interumano. E poi sempre un altro passaggio di Locatelli, presidente appunto del Consiglio Superiore di Sanità, L'altra domanda che tutti ci poniamo, no, è un po' assillante, è quanto ancora durerà, quanto sopravviverà questo maledetto coronavirus? Che il virus poi possa di fatto mantenersi anche per qualche mese è possibile, ma nessuno ha oggi dei dati inconfutabili per poter dire fino a quando. È chiaro che però se guardiamo altre situazioni epidemiche che si sono presentate nel corso degli anni, tanto più efficaci saranno le nostre politiche di contenimento, tanto più riusciremo a evitare eventuali altri episodi come quelli che stiamo vivendo. Adesso invece parliamo di alcune sperimentazioni che si stanno facendo di farmaci in questi giorni. Parte oggi in 8 ospedali di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio la sperimentazione clinica del Remdesivir, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, che è un nuovo farmaco antivirale messo a punto dalla farmaceutica americana Gilead, ancora non approvato dall'AIFA, cioè dall'Agenzia Italiana del Farmaco, ma già impiegato per uso compassionevole e gratuito in casi gravi di Covid-19, come i primi pazienti cinesi curati allo Spallanzani di Roma in alcuni casi della nave Diamond Princess. È un medicinale che potrebbe rappresentare una svolta per la lotta al coronavirus e di cui ora va testata in modo certo ed efficace la sicurezza. La nostra Rosanna Magnano ha intervistato Valentino Confalone, vertice appunto di Gilead Science Italia. Con AIFA si è lavorato in una collaborazione straordinaria. Questo ci ha consentito di aprire gli studi con una rapidità che non si era mai vista prima. Si consideri che di solito ci vogliono alcuni mesi per l'apertura di uno studio clinico e in questo caso siamo riusciti ad avviare l'apertura in pochi giorni, in poco più di una settimana, tanto che i primi centri dovrebbero ricevere il farmaco già oggi. Questo vuol dire che dalle nostre attese si riesca ad avere i primi risultati a maggio. Ci sono altri due studi che sono iniziati prima, uno in Cina, uno negli Stati Uniti, che non sono studi Gilead, ma in quali Gilead ha fornito il farmaco in maniera evidentemente gratuita, e questi studi dovrebbero dare già qualche risultato ad aprile. Non si sa dove sarebbe prodotto eventualmente? Stiamo valutando diverse ipotesi, che sono quelle sia di conversione di impianti attualmente esistenti, sia di costruzione di impianti nuovi, in linea di massima sono tutti negli Stati Uniti, e sia di eventualmente partnership con aziende terze. La priorità in questo caso è fare in fretta. Non è che Trump ha contattato anche voi per avere il monopolio? No, assolutamente no. C'è grande ottimismo da parte delle autorità americane su questa linea di ricerca, ma assolutamente non c'è stata nessuna discussione in termini di utilizzo monopolistico. Anzi, io devo dire, dalla casa madre abbiamo trovato una straordinaria collaborazione, ad esempio nell'aprire un grande numero di centri in Italia, nel portare stock di prodotto vicino nei paesi europei. In particolare noi abbiamo anche per l'uso compassionevole creato un deposito, stiamo creando un deposito in Italia, quindi assolutamente no, anzi al contrario. Bene, a questo proposito, tra poco vi dico le dichiarazioni di Trump, io non credo ai miei occhi. Comunque, per i vostri messaggi invece tra pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, a proposito di quello che state facendo in questi giorni di casalinghitudine forzata, dice Paolo, con la lettura, il tempo lento, questo l'avevo già letto, Elio, anzi, in verità abbastanza annoiato, quindi in giardino, leggendo, ascoltando Radio 24, lei in particolare, cioè io, che non mi annoia affatto, meno male, dico, scrivendo, leggendo, insomma, passerà tutto, dai. Appunto, speriamo. Simone dice: per me che vivo in Brasile c'è doppia preoccupazione per i miei cari e l'Italia e per cosa succederà qui, dove milioni di persone vivono nelle favelas e il servizio sanitario pubblico non funziona. Ha ragione Simone, quante realtà decisamente molto molto molto preoccupanti di cui ancora non si parla molto. Mentre Antonio dice: sto lavorando, sto facendo la notte, sono un capostazione in una stazione della Lombardia, gran parte dei treni sono stati soppressi, ce ne sono pochissimi, però qui non si stacca mai 24 ore su 24, la stazione, dice, viene presidiata. Giustamente vi dicevo della dichiarazione di pochi istanti fa di Trump, che finora, lo sapete, ha sempre detto è un complotto contro di me, l'OMS dà dei dati falsi, dice abbiamo tutto sotto controllo, qui abbiamo pochissimi morti, prima 32, poi 40, tutto sotto controllo. In questo momento, vi leggo questa agenzia, Donald Trump ha ammesso per la prima volta in una conferenza stampa alla Casa Bianca che la situazione causata dal coronavirus negli Stati Uniti, qui è virgolettato, non è sotto controllo, e ha definito il Covid-19 un nemico invisibile. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. L'ultima notizia è quella che vi davo, appunto, della dichiarazione sconcertante di Trump, mentre Alfio dice, a proposito dei vostri messaggi su cosa state facendo in casa in questo periodo, abbiamo trascorso un fine settimana pessimo, organizzarsi in cosa, non possiamo fare nulla. Via, un po' di fantasia Alfio, un po' di fantasia. Nous sommes en guerre, oui. Le pays accompagnera dans cette période les régions les plus touchées, aujourd'hui, comme celles qui le seront demain. Questo è il presidente francese Macron che all'incirca alle 20 di questa sera ha tenuto un discorso solenne alla nazione, alla Francia, dicendo siamo in guerra, l'avete sentito, e ha annunciato che da domani a mezzogiorno per almeno 15 giorni, dice, i nostri spostamenti saranno fortemente ridotti. Questo fatto di aver detto che domani a mezzogiorno, dicendo alle 20 di stasera, insomma, io non lo so bene che cosa provocherà in Francia di spostamenti, di fuggi-fuggi, di corri-corri, ma tra poco cercheremo di collegarci con la Francia, vediamo se ci riusciamo. Nel frattempo però ci colleghiamo con la Spagna, con Jorge Mari Rodriga, editorialista del Paese, che ritroviamo. Ciao Jorge. Buonasera Roberta. Allora, la Spagna oggi ha preso una decisione importante, ha deciso la chiusura delle frontiere. Jorge, sembrava che fino a qualche giorno fa anche lì non è che si avesse molto il polso della situazione, adesso si passa addirittura alla chiusura delle frontiere. Sì, direi che nelle ultime 48 ore la Spagna ha accelerato tutti i processi che per esempio sono stati presi da altri paesi dell'Europa, e ha deciso di chiudere le frontiere. Questa chiusura non è una chiusura, è cosa molto importante per i camionisti. I camionisti e le merci possono passare, è soltanto, diciamo, per persone che viaggiano ma non sono residenti in Spagna o non sono cittadini spagnoli. Quindi però Jorge, a questo punto la situazione più in generale qual è? Evidentemente ci si è accorti, si è accorto il primo ministro Sanchez della gravità anche lì in Spagna? Sì, certamente, da sabato sera le strade sono vuote, la polizia e anche certe unità dell'esercito sorvegliano che questa sorta di stato d'allarma, stato d'emergenza sia compiuto per tutti i cittadini. Se seguono delle regole nei negozi, delle farmacie, nei supermercati, di avere soltanto un piccolo numero di persone dentro, le persone che sono in fila aspettando per entrare devono guardare una distanza di un metro e mezzo più o meno. La polizia sta fermando a tutti quelli che trovano per strada, diciamo, senza fare nulla, o ad esempio se vanno a passeggiare il cane, la passeggiata è molto lunga, la polizia va dietro di loro e li mandano a casa. È più o meno, insomma, le misure che sono state prese in Italia e che adesso giustamente diventano un po' prese quasi a fotocopia dagli altri stati, visto che noi, come ha detto anche Conte, come sappiamo, abbiamo fatto un po' da paese pilota. Grazie intanto Jorge Mari Rodriga dalla Spagna, editorialista del Paese, ricordo, e buon lavoro Jorge, a presto allora. Grazie. È un abbraccio, un abbraccio forte. Ciao Jorge, ciao. Dicevamo prima di Macron, ci siamo collegati con Danilo Ceccarelli da Parigi. Danilo? Buonasera, sì, buonasera a tutti. Allora, ha detto siamo in guerra, abbiamo fatto sentire questo passaggio di Macron, e poi in questo discorso alla Nazione dice da domani a mezzogiorno, anche lì misure restrittive per almeno 15 giorni, i nostri spostamenti saranno fortemente ridotti, rinviate le riforme a partire da quella delle pensioni che ha messo quasi così in subbuglio tutta la Francia con tante manifestazioni, no? Anche abbastanza aggressive, Danilo. Esattamente, adesso il presidente Macron punta tutto in un momento così difficile sull'unità nazionale, quindi non c'è spazio per questi temi che in passato hanno letteralmente fratturato il paese. Soprattutto, oltre a fare appello all'unità nazionale, Macron chiede anche maggiore disciplina. Questo soprattutto dopo quanto si è visto ieri, che con i parchi stracolmi di gente e le urne vuote, nonostante il primo turno delle elezioni municipali. Il presidente è stato chiaro e diretto: un comportamento del genere è inaccettabile e non può, non deve assolutamente ripetersi. Infatti poi ha anche annunciato il rinvio del secondo turno di queste elezioni municipali, che avevano aperto una grande polemica per il fatto che non erano state cancellate e che avevano registrato un tasso di astensione record attorno al 56%. Giusto, mi pare di aver visto che la proposta sia di fare il ballottaggio il 21 giugno, sarebbe stato evitabile anche il primo turno, ma insomma ormai è andata così, Danilo. Questa è un'indiscrezione che dovrà essere poi confermata, vedremo se tratta dal Premier Filippo. Grazie Danilo Ceccarelli da Parigi, buon lavoro a te e un abbraccio anche a te. Caro Danilo. Un abbraccio a tutti voi. Ciao Danilo. Ovviamente una situazione così grave e inaspettata come la pandemia da coronavirus, tra le tante ripercussioni e tanti risvolti, anche l'aspetto psicologico, no? Da vari punti di vista, le persone che ne vengono colpite, soprattutto quelle che vengono colpite gravemente, le famiglie dei malati, soprattutto coloro che devono affrontare un lutto e anche in un modo particolare perché non ci si può avvicinare ai propri cari, e poi tutta la situazione forzata e inevitabile della clausura, chi la prende bene, chi la prende male, chi ritrova il tempo perduto nella propria famiglia, i propri affetti, chi invece vive con una pentola a pressione perché non è abituato a convivere così tanto tempo con i propri familiari. Ci sono tensioni molto forti, non parliamo delle donne maltrattate in una situazione veramente che rischia di diventare una tragedia nella tragedia in questo periodo, per arrivare naturalmente al forte impatto psicologico che subisce il personale sanitario, donne e uomini che lavorano negli ospedali, medici, infermieri, personale sanitario in genere. Per loro è partita un'iniziativa che si chiama lo sportello Ti Ascolto, presente a Milano, Torino, Bolzano e Lecce, e su questo voglio coinvolgere Marco Sasson, che saluto. Buonasera, dottor. Buonasera. Quindi questo sportello è proprio per il personale sanitario, che è quello che è più, diciamo, in trincea sul fronte, no? Che deve combattere una battaglia durissima e a quale tutti siamo grati. Sì, esatto. Diciamo, insomma, il nostro sportello in realtà è preesistente a questa iniziativa che abbiamo attivato in questi ultimi giorni. Sono, insomma, diversi anni che ci occupiamo di salute mentale. In questi giorni abbiamo sentito la necessità di dare un contributo sociale a ciò che sta avvenendo, in Italia, e abbiamo pensato, insomma, che tutto il personale sanitario che da qualche settimana si trova esposto a delle condizioni di lavoro, delle condizioni psicoemotive assolutamente pesanti, assolutamente gravose, potrebbe avere, insomma, utilità ad avere uno spazio di decompressione rispetto a una quotidianità che è diventata assolutamente straordinaria da tutti i punti di vista da molto tempo ormai. Come vi fanno a contattare e in che cosa consiste esattamente il servizio, dottor Sasson? Lei che è coordinatore, allora, dello sportello Ti Ascolto, nonché psicoterapeuta naturalmente. Sì, sono coordinatore in realtà di questo progetto. Il nostro gruppo di lavoro è un gruppo orizzontale alla pari, ci tengo a specificare. Beh, questo. Dunque, il progetto sostanzialmente consta nell'offrire delle sedute psicologiche a titolo gratuito per tutto quello che è il personale sanitario coinvolto nell'emergenza del coronavirus, e possiamo essere contattati tramite vari canali internet, il nostro sito sportellotiascolto.it, la mail milano@sportellotiascolto.it, al numero di telefono 3758 5, non me lo ricordo. Glielo dico io, guardi, vedo e prevedo: 375 5856 858. Lo ripeto, per accedere allo sportello Ti Ascolto per il personale sanitario che ha bisogno di supporto psicologico, il numero è 375 5856 858. Va bene, ho detto bene? Credo che è più preparata di me. No, me lo sono scritto. Lei ha già anche tante altre cose da fare per questo servizio e per naturalmente il suo lavoro. Bene, è un'altra cosa bella, una bellissima iniziativa delle tante in questi giorni. Grazie dottor Marco Sasson e buon lavoro allora. Un abbraccio anche a lei. Vuole consigliare una canzone, lei che è psicoterapeuta, per sollevare gli animi dai balconi? Oh, beh, accidenti, non l'inno, sicuramente i Beatles. Vabbè, anche i Beatles. Tipo Let it be o... Let it be poi è un po' deprimente, metterei un Sgt. Pepper, qualcosa di più, ah, di va più bene, movimentale, più ritmico, più brioso. Benissimo, grazie. Grazie Sansone, grazie. Arrivederci. Ci risentiamo brevemente alle 22.